Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Oggi la puntata è dedicata ai rompicoglioni che funestano la nostra vita. Basta, ho detto adesso non dirò mai più, però la parola rende l'idea, ormai è sdoganata. Tutti noi abbiamo uno o una di queste persone che funesta fasi della nostra vita. Li chiameremo i frantumatori gonadici, ecco, questo è un bel termine. Oggi dedichiamo la puntata ai frantumatori gonadici. Io penso che ogni categoria professionale, ogni categoria dell'esistenza ne abbia una selezionata schiera. Quali sono quelli che in particolare rendono vivace la mia giornata? Sono coloro che pensano, che attribuiscono al fatto che io parli mestamente alla radio un'ora al giorno, che abbia chissà quali addentellati, chissà quali poteri, chissà quali leve oscure nel campo, non so, dell'editoria, della pubblicistica, della radiotelevisione, della moda. E quindi l'attanagliatore gonadico nel mio caso è una persona che insiste per vedermi, dice: devo vederti. Dico: ma che vuoi? No, una cosa che ho fatto vorrei sottoporla. Io, che sono persona normalmente cortese, dico: beh, mandamela via mail, spediscimela alla radio, mandamela al giornale, gli darò un'occhiata. Mentendo, sapendo, io non ho nemmeno voglia di leggere i libri stampati, figuriamoci se voglio leggere i manoscritti, però almeno pongo fra me e l'attanagliatore gonadico un po' di spazio, cerco di fare in modo che lui capisca. No, insisto, no, devo dartelo io in mano, devo fartelo vedere, devo spiegartelo. Ma già il fatto non mi debba spiegare qualcosa è un grosso insulto. Io non voglio che nessuno mi spieghi nulla. Quello che non capisco istintivamente vuol dire che non è percepibile, concepibile e paragonabile al mio pensiero. Quindi, ahimè, siete troppo avanti rispetto a me. Altro tipo di attanagliatore gonadico è quello che vuole socializzare. O penso, millanta o adducio al fatto che magari, ne so, ci siamo visti a un convegno, ci siamo incrociati una volta col bicchiere in mano, siamo sbattuti la faccia una volta, o io malauguratamente una volta gli parlai di un suo libro, di un suo articolo, di una sua opera dell'ingegno alla radio, che noi siamo amici. E questo significa: ci vediamo, andiamo a cena insieme, dobbiamo vederci, dobbiamo mangiare assieme, incontriamoci, prendiamoci un caffè, prendiamoci un aperitivo. Non me va, non c'ho voglia, non voglio mangiare con nessuno, non voglio vedere nessuno, a meno che non mi venga fantasia di vedere qualcuno. Altro tipo di frantumatore gonadico molto insistente è colui che cerca lavoro. A me dispiace, è un grosso problema in questo momento, ma devo dirlo sinceramente, mi arrampico sugli specchi ogni giorno per cercare di mettere insieme il pranzo con la cena. È vero, non sto scherzando, non è poi così facile oggi. Non ho nessun potere, nessuna facoltà di aiutare nessuno, di fare nessuna agevolazione, non ho nemmeno più relazione. Una volta sì, ero anche abbastanza conosciuto, potente, attendibile, oggi non mi sta a sentire nessuno. Quindi io, con questo primo auto da fè, cioè confessione aperta, mi sono tolto il grosso peso e i miei frantumatori gonadici si saranno sicuramente rilassati e posteranno, riporranno la loro attenzione verso magari altri colleghi, altre persone. Ma voi che mi ascoltate, che magari fate altri mestieri, avete altre occupazioni, avete altre quotidiane afflizioni, quali sono i vostri martellatori gonadici? Cosa vi chiedono? Come ve ne liberate? Come ogni giorno vi tolgono vitalità e voglia di vivere? 800 24 00 24. Questa puntata sarà la grande pubblica dimostrazione che ogni essere umano, anche il più disgraziato, anche il più nullatenente, anche colui che nulla conta al mondo, ha il suo attanagliatore gonadico nascosto da qualche parte. Ho spedito questo manoscritto sperando in qualche misura che questo paese si potesse essere interessati a una voce un po' anche fuori dal coro, no? Certo. Un po' fuori da, diciamo, dai soliti nodi, dai marrapanzeri, comunque non mi ha risposto nessuno. Non mi ha risposto nessuno, ma nemmeno una riga, ma nemmeno, voglio dire, una telefonata, che non entro neanche nel merito dell'educazione e della maleducazione, però non vorrei che poi questo significasse che in questo paese le cose vengono anche un po' cestinate a priori. Io vorrei sapere lei la sua opinione, perché lei è una voce importante. No, non lo so se cestinano. Non vorrei neanche che lei, dottor Costanzo, se prestasse pure lei a questo gioco, diciamo. Quale gioco? Non vorrei che in qualche misura, no, in qualche misura in questo paese ci fosse spazio soltanto a partire a certe conventicole. Ecco, questo è un esempio scolastico. Questo è Sergio Castellitto in Caterina va in città, scrittore sfigato, marginale, senza alcun talento, lo fa per hobby. Scrivere è un mestiere. Se tu vuoi scrivere devi fare soltanto quello, rischiando, c'è il rischio d'impresa di essere morti di fame, di non riuscire a fare nulla, però almeno scrivi, fai lo scrittore, dedichi la tua vita al pensiero, alla scrittura, elaborare idee che prima non esistevano. Non puoi fare come fa Castellitto, non so se bene l'ingegnere, il geometra, il ragioniere, un altro mestiere, poi ciò che tu scrivi a tempo perso, scaccolandoti sul divano, deve essere degno di attenzione. Infatti lui va al Costanzo Show con questa idea che c'è sempre un complotto, sì, perché il frantumatore gonadico pensa c'è sempre un complotto che lo esclude dal circolo degli eletti. Abbiamo questa mattina voglia di mostrarvi degli esempi da film proprio di frantumatori gonadici. Per ognuno di questi esempi vedrete che avrete delle corrispondenze nelle vostre vite. Per fare questo, naturalmente, ho il grande Giuseppe Sansonno qui con me. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo a definire il frantumatore gonadico nella storia del cinema. Castellitto è uno di quelli più riferiti all'esempio che ho fatto io, riferendomi naturalmente alla mia esperienza personale. Io la cosa attinge all'archetipo oraziano nelle satire del... Tu che sei regista, quanti ne hai di frantumatori gonadici che ti dino sottoporre il loro film, l'opera prima, c'hanno un'idea ma non c'hanno una lira per produrla? La mia assoluta assenza di potere, sì, però più morto di fame di me, peggio ancora. Molto peggio, cioè, indigianzi, faccio un appello pubblico a versare però, su nonostante questo tu hai frantumatori gonadici che ti dicono mi aiuti. Ma sì, ma il discorso è che attinge a un archetipo italiano che c'era fin dalle satire di Orazio. Come ti dicevo, l'attacca a bottone, la satira del 30 avanti Cristo con Orazio che viene importunato per strada da questo che vuole entrare anche lui nella cerchia di mecenate. Insomma, quindi è da lontano che partono i martellatori gonadici o frantumatori, come giustamente li definisci tu. Ma io distinguerei due sfumature che Castellitto riassume in sé in un'unica, cioè c'è il narcisista, quello che è autistico, che logorroico, che parla di sé e quindi pretende che tutti lo ascoltino e che abbiano... Autistico stesso... non parla per niente, sì, ma sì, il narcisista. Sì, ecco. sì, no, dico, nell'autismo... No, ne so qualcosa per questo. No, certo, no, ma in un altro senso. E invece c'è quello che vuole ottenere un favore, appunto, che invece è biecamente legato a un utilitarismo. In questo senso Castellitto col suo opus magnum nel cassetto li pone in essere tutte e due. Sentiamo subito qualche ascoltatore. Nelle fasi dell'avvicinamento, aggrovigliamento, attaccamento, lenta frantumazione e definitiva esplosione delle gonadi, abbiamo varie tipologie di frantumatori gonadici. Stefano, buongiorno. Stefano, sei già frantumato, scomparso, è morto. C'è Stefano? No. Va bene, vediamo se Stefano viene recuperato. Intanto sentiamo Massimo. Ciao. Ecco Massimo. Buongiorno, sono Massimo da Varese. Faccio l'amministratore immobiliare, per cui direi che la categoria dei frantumatori gonadici è presente normalmente nel... Ecco, spiegami la tua categoria, perché io mi è sconosciuta. Io conosco quelli che girano nel mio habitat, sono sempre aspiranti poeti, scrittori, registi, pensatori, sì, improvvisatori. Se uno di voi abita in condominio può immaginare che tutte le persone, pur essendo magari di altri settori, sono tutti esperti quando arrivano in condominio. E quindi, e poi vabbè, per antonomasia l'amministratore disonesto. Certo, quindi sì. Partendo da queste premesse è evidente che l'amministratore deve essere martellato a priori. Quindi chi amministra immobili ha... tua moglie quando torna a casa picchia tua moglie perché tu non sai perché, lo sa. Ecco, fammi un esempio di classico martellamento gonadico che subisce un amministratore di immobili. Voglio dire, banalissimo, devi cambiare un bruciatore, proponi un fornitore di fiducia che si sveglia magari alle 6:15 di mattina a farlo funzionare, ti cominciano a chiedere hai fatto 3 preventivi e come mai dobbiamo scegliere questa marca invece di un'altra, e devi portare una referenziare sempre comunque il perché di fai una cosa relazionare, cioè il... Se no pensano che sei tu che ci mangi sopra, tanto per essere chiari. Certo, allora vediamo, io siccome ho un po' di esperienza, per colpa di qualcuno certo. Non si fa credito a nessuno. Però mi apri, scusa un attimo Massimo, mi apri, andiamo al punto. Tu devi definirmi anche fisicamente e diciamo esistenzialmente questo frantumatore, il frantumatore gonadico. Di solito uno che ha abbastanza tempo a disposizione, perlomeno nel mio caso. Poi, allora, la categoria del pensionato, ecco, sì, infatti tipo. O la categoria del pensionato, ma ci sono fior di pensionati in gamba, sì. Quindi non possiamo generalizzare. oppure la categoria del soggetto che comunque è frustrato nella vita, perché comunque nel suo ambito di lavoro, nel suo ambito sociale non riesce a realizzarsi, allora quando viene all'assemblea ritiene che sia il luogo in cui poter scattare, avendo dei diritti, perché dice io sono proprietario, scatenare tutte le è molto ire. Chiaro, abbiamo definito una seconda categoria, vediamo con Gianluca, frantumatore gonadico in famiglia. Sì, buongiorno, piacere di parlare con lei. La sento un po' provata comunque. La sento un po' provata, si vede che ultimamente hanno dato martellate di brutto, vero? Esattamente, infatti perché cercavo di spegnere la radio prima e poi perché quando ho sentito la domanda ho detto devo assolutamente chiamare perché devo anche sfogare. Si sfoghi. Allora, la situazione è complessa, però cercherò di definirla con tutti i dettagli il più brevemente possibile. Sì. Io diciamo sono un figlio di immigrati siciliani, cresciuto nella Brianza e adesso faccio la mia carriera con più o meno soddisfazione. Ora, ho dei parenti carissimi, tra l'altro, in Sicilia, e una di queste, che è una vecchissima zia, avrebbe da tanti anni piacere di darmi in eredità una casa. Okay? E questo naturalmente mi fa molto piacere. Se non che questo attira la diretta competitività di altri parenti che vogliono ottenere questa stessa eredità. Quindi io vengo bersagliato più o meno costantemente da telefonate da parte della zia, carissima naturalmente, che mi dice mi raccomando Gianluca, telefona al notaio, cerca di fare. Poi subito dopo le telefonate dei parenti concorrenti che mi cercano di motivarmi eccetera eccetera sul fatto che questa cosa non sia giusta, non sia doverosa eccetera. Sì, eccetera. Stringa, sennò cioè, sta riportando alla categoria. Ci sta raccomando a noi. Scusi. Quindi questo diciamo che il mio guastatore gonatico è in particolare il parente quello che vorrebbe avere questa serie. Ma guarda, le do un consiglio Gianluca, ci faccia delle lunghe telefonate, cioè gli spieghi bene, gli esponga la questione come la sta esponendo lo finirà adesso. Riuscirà a neutralizzare l'effetto del frantumatore gonadico. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade. Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, io dico sinceramente, circa... non ce la faccio nemmeno ascoltarlo. Dopo un po' mi viene la frenesia nelle nocche acciaiose, mi viene voglia di strangolarlo. Questo è Furio, il personaggio del frantumatore gonadico a spettro larghissimo, immortalato da Verdone. Tu cercavi una definizione fisionomica del frantumatore gonadico, qui ce l'hai, perfetta, archetipale, con Verdone che ha la deglutizione compulsiva e tiraneggia con la propria esasperazione euclidea il mondo, telefona all'ACI, bilancia la macchina fra figli e bagagli per avere una sorta di parallelismo con lo suolo, devasta la moglie Magda fino all'esasperazione. Qui appunto c'è la propria visione del mondo imposta a tutti e il controllo su ciò che tutto deve seguire le proprie indicazioni. È il maniacale perfezionismo, maniacale patologico, che il frantumatore gonadico vorrebbe applicare a tutte le persone che attorno. Sì, sì, una definizione precisa di ogni dettaglio. È bello perché Furio poi alla fine porta all'estremo la frantumazione gonadica, va oltre. In realtà è un omicida di moglie, omicida di seconde moglie, omicida psicologicamente anche del figlio nell'ultimo film. Nell'ultimo film, esatto. Le macchiette di Verdone sono diventate mortuarie negli ultimi film, qui erano ancora vitali, forse c'era anche più speranza, era più giovane, però c'è un sapore mortifero negli ultimi film, anche sono anche meno riusciti secondo me dal mio punto di vista. Qui si salva dal frantumatore gonadico Magda buttandosi fra le braccia del compianto Angelo Infanti, del bohemien, del chansonnier che trova sulla strada fra un autogrill e lo lascia, addirittura richiamerà l'ACI Verdone perché era stata cambiata la ruota per farlo cambiare dall'ACI perché tutto sia puntuale e preciso. Andiamo avanti. Mannaggia, brutta puzzone. Vuoi inaugurare la macchina nuova? Ah, ci siamo con la macchina, non la voglio. L'ho portata sta sua la macchina nuova, eh? Ammazza che affare che hai fatto. Un 1400 seminova a 300 mila via. No, insomma, ci fa pensare se non te la più. Beh, vabbè, ormai è fatta. Che? Queste sono le chiavi, la macchina sta su, dammi 300 mila via a fare fatto. Subito però, se non mi metto a piangere, non te la più. Piangi pure, ripigliati le chiavi, ma che ti do 300 mila lire? Oh, ma che scherziamo? 300 mila lire, regalate. Io non la voglio regalata, io la voglio comprata. E poi voglio sapere che compro. Ma come che compri? Una macchina seminuova? Ma che vuoi? Io non voglio niente, io voglio sapere insomma questo 1.400 di chi è. Ma come di chi è? Tu vengo io di chi è? Può essere rubata. Come rubata? Rubata? Tu mi stai raccontando tanti pasticci. Prima mi hai detto che la macchina era tua, poi mi hai detto che non era tua. Poi mi hai detto che era di tuo padre, che te l'ha lasciata, che è morto papà. Sì. È morto papà, sì. Ma quando? Io mi sono informato. Ecco, Giuseppe Sansone, qui siamo in un caso di frantumatore gonadico finalizzato comunque al proprio profitto. Allora, 800240024, stabiliamo, poi ti farò spiegare esattamente di cosa si tratta, una fattispecie. Ecco, il frantumatore gonadico agisce sempre per suo interesse. Chi insiste con voi, chi vi tartassa, chi vi chiama, anche offrendovi magari, non so, delle piacevoli serate, andare a cena insieme, persino l'offerta di dazione strategica da parte di un frantumatore o frantumatrice gonadica, è finalizzata alla sua soddisfazione, non alla tua. Sei d'accordo? Sì. Qui addirittura viene ritratta la vittima del frantumatore gonadico, perché c'è anche una fisionomica della vittima, e qui Peppino De Filippo la incarna perfettamente, questo fotografo subissato da questo Sordi opportunista. Sordi è stato il frantumatore per eccellenza in tantissimi film, sospeso fra opportunismo e follia, perché a volte è bizzarro, a volte invece è puramente meschino, avido, e cerca appunto di piazzare a Peppino questa macchina rubata, e Peppino la subisce a questa voce lagnosa di chi sta subendo una truffa che gli sta per arrivare fra capo e collo. Sentiamo David, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire la mia di esperienza che è riguardante i frantumatori. Io purtroppo ho un ristorante, di frantumatori ne sento tanti tutti i giorni, e i peggiori sono proprio gli amici, perché col fatto che uno è in ristorante ha tutto, si pensa che tutto è quasi tra virgolette dovuto, quindi da quelle che sono le comunioni, i pranzi, le cene, il figlio che ha appena finito l'università e vuole... Davide, lo sai che dice una cosa giusta? Il frantumatore gonadico tipico, poi ritorno a lei, è colui che si approfitta anche della ragione professionale del proprio amico. Mi è venuto in mente giorni fa, io ho chiesto a una cara amica, che so professionista bravissima, di fare una visita a mio figlio, e ho premesso il fatto che devo dargli un normale appuntamento, non forzando nulla la sua agenda, e precisando che lo da considerare come un paziente come gli altri, non pretendevo una visita gratuita. Mi conforta il fatto che so che sia brava, che conosce bene la sua disciplina, che perlomeno mio figlio sarà in mano di una persona che avrà un atteggiamento affettuoso verso lui, ma non chiedo nulla di più. Invece il frantumatore gonatico, tu faccia il dottore, il medico, l'ingegnere, l'architetto, il vigile della strada o il ristoratore, chiede sempre un trattamento di favore, vero? Ma infatti il problema di queste cose qua, che poi i peggiori tra l'altro sono proprio i parenti in tutta questa faccenda, perché già i conoscenti è passabile, ma i parenti sono veramente i peggiori, perché poi senza pudore chiedono tutto quello che... E lei come si difende? No, io sono di una fascia disciplina, io soprattutto a quelli più stretti, come si dice a Roma, insomma, gli è meno una volta così non ci tornano più, quindi... Quindi lo dice una volta e non ci pensano più. Sì, così. Ma di meno nel senso rinuncia, fuori di metafora, ecco, fuori di metafora. No, nel senso che se un preventivo una persona normale glielo farebbe a un prezzo, io lo aumento quasi del 20 o 30% di più, così imparano e non ci tornano più da quelle parti. Che rabbè? Zuppa di pesce. No, questa è zuppa di teste di pesce, di cocce e di vongole. Ma c'è anche il polpo. C'è capitato per combinazione. E a parte il fatto che è tutta roba che ve l'avete dimenticata nel frigorifero. Ma no, guarda, teste fresche, fresca. Sta zitto, che ne sai te? Vede, signorina, le posso assicurare che l'abbiamo pescato stamattina. Ma pescato dove? Non mi faccia parlare. Che lo vuole insegnare a me, eh? Comunque le posso portare un'altra cosa. Ecco, guardi, vi porto il conto, almeno quello sarà fresco, eh? Come vuole. Ecco. Ma è mai possibile che non c'ha mai un attimo di pace? Stai sempre con l'anima attraversata. Tu invece dormi da piedi, vero? Sì. A te tutto va bene, non protesti mai. No. Sai come finiscono quelli come sì, te? Sì, come Don. Come Don Falcuccio. Ma chi ha messo in conto anche la zuppa di pesce? E l'hanno ordinata, no? Senti, allora la zuppa di pesce al conto non lo paghiamo, no, sa? Ma che ce ne importa? Noi paghiamo, ce ne andiamo, non ce veniamo più. Tu dovevi far missionario. Senta, signorina, più di 100 persone l'hanno mangiata sta zuppa e nessuno si è lamentato. E sapete che è stato in bocca buona, no? Uffa, basta, no? Piantela! Esiste anche la categoria dei frantumatori gonadici con la coda di paglia. Mi sta scrivendo un signore su Facebook. Mia moglie dice che stai parlando di me, mettendosi avanti una persona che nemmeno conosco. Ecco, il frantumatore gonadico in questa situazione dove l'abbiamo preso? La frantumatrice, anzi. Racconti romani, una strepitosa Giovanna Ralli che fa la pescivendola ipertesa, vociante, che non è battagliera, vulcanica, non si accontenta mai, e qualora qualcuno l'accontenti, lei cerca, assume una posizione esattamente opposta pur di essere scontenta, perché è il piacere estremo della scontentezza portata all'esasperazione. Il povero Antonio Cifariello qui è il bel fidanzato che subisce in silenzio, e lei lo esaspera perché non prende parte con lei contro, nella sua lotta contro il mondo, eterna, continua, quotidiana. L'ascoltatrice Silvia, che ha una passione profonda per la filologia e per il rispetto della lingua piacevolmente usata, fa la distinzione fra attanagliatore gonadico e frantumatore gonadico, ponendoli temporalmente in situazioni diverse. L'attanagliatore è colui che non molla mai la presa, il frantumatore è colui che in realtà colpisce in maniera profonda. L'attanagliatore chiude nella sua tenaglia e poi aspetta, però poi la frantumazione è una fase, diciamo, una pressione graduale ma costante, che poi porta a una dolorosissima frantumazione lo stesso. Forse meglio il frantumatore che l'attanagliatore. L'attanagliatore persiste nel tempo. Su questo profondo dilemma vi lasciamo alle informazioni della borsa, ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, se esso attanagliatore o frantumatore, definisci esattamente come tartassa la vostra categoria. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Melog 2.0. Dunque l'alternativa era o l'espresso delle 7.20 o il rapido delle 10.20 o l'intercity delle 11.50. Alla fine ho optato stoicamente ed anche masochisticamente per l'automobile. E quanto ci hai messo da Milano? Guarda caro, ti dirò, una cosa è certa, io amo partire da Milano a metà mattina, perché io voglio, seguitemi perché questo è interessante, fuggire da Milano quando è in piena attività, quando brulica, quando il gigante si è risvegliato, come dice la Dame. Insomma, io voglio avere la sensazione di lasciare alle spalle la mia comorza. Scusa, devo metterle in fresca. Sì, perché una città è come una moglie, o la sposi per amore o fai un matrimonio di interesse. Allora in quel caso la subisci. E beh, io vi giuro che dopo 12 anni io vivo ancora in distoria con il mio ambiente, incredibile. Ma va, scusa. Abbiamo inserito il deframmentatore gonadico perché dall'inizio di questa trasmissione, soprattutto su Facebook, stanno arrivando messaggi di tutti i tipi. Improvvisamente tutti mi convocano a vernissage, a presentazione di libri. Mi scrive un certo motopoeta: vorrei invitarti a cena, spiegarti il mio nuovo romanzo, darti personalmente il manoscritto scritto a mano del mio primo romanzo, invitarti a pranzo, mandarti un'email che poi devi stampare a casa tua della mia collezione di poesie, chiederti un lavoro, invitarti a colazione, avere una raccomandazione, invitarti a merenda, rubarti la moglie, uscire con tua figlia che non ho e prendere il tuo posto. Buon per lui. Poi mi scrive giustamente Valentina, mi ricorda anche per gli avvocati è un problema. Dice: i miei frantumatori gonadici dicono quelli che dicono tu sei un avvocato, e mentre sono al mare, a spasso, in vacanza, comunque ma a riposo, mi sfrittellano la loro questione privata e desiderano un mio parere immediato sull'unghia, come se avessi in testa l'enciclopedia giuridica. Quelli che vogliono attaccare bottone, chiacchierare sui mezzi pubblici mentre sto leggendo. Cavolo, non lo vedi che ho un libro in mano? Forse non voglio parlare con uno sconosciuto. Giuseppe Sansonna. In realtà l'esempio più sfavillante di frantumatore è Rupert Pupkin, alias Robert De Niro, in Re per una notte, che forse ricorderai. Sì, me l'hanno citato. Tartassa e assedia Jerry Lewis fino allo sfinimento, in realtà da fan, ma per poi prenderne il posto per accedere poi lui. Qui abbiamo sentito. Sì, non parliamo dei fan, cioè io nella mia modestissima figura non ce l'ho, ma quelli che dicono ti ho sentito alla radio, oppure sapendo che tu fai il giornalista ti propongono, che ne so, la sagra della mozzarella di bufala, qua ci sarebbe da scrivere un pezzo, ma che scrive un pezzo di che? Cioè l'aggancio. Invece qui abbiamo sentito compagni di scuola di Verdone, abbiamo sentito Luigi Petrucci alias Postiglione, il personaggio che si richiama un po' al Sattaflore, se c'eravamo tanto amati, ovvero l'intellettuale verboso logorroico dalla logorrea devastante della Magna Grecia, che non ha delle finalità pratiche, ha la pura necessità di ammorbare gli interlocutori, di snocciolare l'interlocutore la sua sterminata enciclopedica erudizione, ma non ha appunto voglia di semplicemente non tiene conto degli interlocutori, sì, dell'ascolto. Perché e questa è la chiave. Il gonadico, anche quello che ha delle formule di vita o di soluzione, sa sempre tutto lui. È quello che come mangi dice quello fa bene, quello fa male, certo. È quello che come dorme dice così non si dorme, che come vesti, che sa tutto della politica, sa tutto in retroscena. Andiamo agli ascoltatori. Allora, gentili ascoltatori che state in attesa delle telefonate, adesso vi chiamerò, avrete pochissimo tempo, in questo ordine dovete esprimere la vostra categoria professionale esistenziale, il tipo di frantumatore e il tipo di frantumazione, dopodiché partirà la motosega. Stefano, cosa fai nella vita? Io sono un tecnico informatico. Come ti frantumano? Nella vita privata, appena c'è un problema su un PC, ti puoi immaginare quello che succede. E il fatto è che ogni problema sembra avere una soluzione su un PC, invece no, non è sempre così. E quindi il problema a volte sembra semplice. I frantumatori gonadici sono tutti nel mio caso, parenti, conoscenti, amici, amici degli amici. Se il computer ha un problema, vengono da me. Ovviamente a titolo gratuito, perché te lo portano proprio fisicamente da aggiustare. Fisicamente, oppure a volte vado io là pensando, sperando che il problema sia di semplice soluzione, mi trovo di fronte pachidermi pieni di virus, computer intasati. Sì, pegando sempre macchine vecchissime, malissimo usate, pochissimo manutenzionate, con software arcaici, diciamo la verità. Spesso, ma volentieri è così. E poi me le devo quindi portare a casa. E non sanno che questo lavoro ha un costo comunque, anche se no, tu lo... nel mio caso per gli amici no, però infatti sto pensando di smetterla con gli amici. Beh, potresti essere tu a tua volta di introdurre virus nel loro computer, così ci penseranno due volte. Grazie Gerry. Antonio. Buongiorno, dunque io sono un autista, però non sono io che subisco i frantumatori, sono io... Cioè, ieri mi sono accorto che sono io un frantumatore. Ah, lei è un'auto da fè, perfetto. Una confessione, è un coming out di frantumatore. Lei come frantuma le gonadi al suo posto? Ha ragione, mi scusi. Ma guardi, io ho il mio capo, ieri sera, poco dopo le 6, le 18, mi sono accorto, cioè, mi ha fatto quasi pena perché io mi sfogo sempre su di lui, ma nel senso che c'è un problema veramente che lui non risolve, dovrebbe risolvere, no? E allora ieri ho visto proprio tutta la sua impotenza e mi ha fatto anche... Purtroppo il suo capo non ha a disposizione una motosega. Questo è ciò che ognuno vorrebbe fare al frantumatore gonadico prima che lui agisca, non di motosega, che farebbe presto, ma di stiletto, di martelletto, di tenaglietta, perché il frantumatore gonadico lavora di fino. Lavora invece di bisturi. Di bisturi. Gerry. Pronto? Avrei un problemino, Gerry. Mi si è otturato il lavello della cucina. Da che parte abita lei? Guardi, io sono nella parte di Torino, per me è un disastro, sono dipendente. Poi sono 5 ore di treno, che ci mette? Sono un dipendente, lavoro presso una ditta e tutte le volte che vado in giro, ma tutte le volte... Lei fa l'idraulico comunque, è questo. Faccio l'idraulico, sì. E mi dicono le cose più assurde, c'hanno il termosifone che gorgoglia, la caldaia che non parte, la vaschetta del bagno che non scarica, il lavandino che è otturato, cioè proprio devo dire anche a mia moglie di non dire in giro il mestiere che faccio perché sennò mi riempiono di telefonate. Quindi se lei va a una cena di amici e scoprono che fa l'idraulico, subito l'accompagna qualcuno subito. Davanti a un sifone, qualcosa del genere? Immediatamente, o la caldaia, o un sifone, subito. Però qui emerge un dato antropologico. Mi è capitato addirittura al ristorante, mentre mangiavo, facevo cena, c'era un ragazzo che mi conosceva, hanno avuto una perdita nel gabinetto. No, dove cucinavano, nella cucina. E è dovuto intervenire. È venuto il cuoco da me e mi dà, tu non fai l'idraulico, vieni che... Di solito accade che si dice, c'è un medico in sala, qualcuno sente male, ma c'è un idraulico in sala, l'ho mai sentito dire, Giuseppe. Qui emerge il dato antropologico dalla sfiducia profonda dell'italiano nella possibilità che tutto avvenga in maniera corretta. Cioè la necessità dell'amico, no? Se tu hai un amico che fa un certo mestiere, sicuramente sei facilitato e quindi è impossibile accedere per vie logiche, insomma. Egregio commendatore, io non sono né sconvolto né disorientato, ma bensì nelle mie piene facoltà intellettive. Perciò le ripeto, come la mettiamo? Che genere di video mi ha preparato? Ma sa che lei ha una strana maniera di dimostrare la sua riconoscenza? Ma scusi, no, un momento. Lo sa che io ho rischiato la vita per salvare la sua? E chi gliel'ha chiesto? E chi l'ha chiamato? Ma scusi, quando io mi sono buttato forse ho gridato come del Paoloni! Come del Paoloni mi venga a salvare! No, e allora? Ah, è così. Allora lei mi fa una colpa ad averlo salvato. Colpa no. Giuseppe Sansone, a Totò, che ha avuto la figura del frantumatore, lui stesso, la sua macchietta è un frantumatore, è un titillatore, un sega nervi. In questo caso cosa fa? Un massacratore, che infatti Peppino, come dicevamo prima, è stata la sua vittima designata in tantissimi film. Ma qui c'è una vittima diversa, la vittima persecutore anch'egli, che è Gino Cervi, Aristide Paoloni, imprenditore e politico, che... lo salva, è un salvatore di professione Gino Cervi, si butta nel Tevere e salva il malcapitato Totò che stava morendo nelle acque del Tevere. Una volta salvato, Totò lo pone di fronte a un dilemma, dice ma adesso mi hai salvato, che vita mi puoi restituire? Io mi stavo suicidando perché la mia vita fa ribrezzo. Adesso quindi io vengo a vivere a casa tua, nella tua splendida casa da ricco, da benestante, porto tutta la mia sterminata famiglia, il cognato almirante che è un garibaldino, quindi gli funesta la vita e la casa. Quindi è molto interessante perché Totò, che tra l'altro si appiglia alla legge, un leguleio, cioè è una zecca garbugli che lo pone davanti al ricatto. Adesso sono qui, mi installo in casa tua. Era un film ispirato a Renoir, molto moderno, molto cattivo, poi purtroppo risolto nel finale, nella solita ammorbante storia d'amore fra i figli dei due, insomma, però neutralizzato, però era molto cattivo, molto incisivo. Ecco, vorrei sentire Raffaella, perché finora non avevo visto nessuna donna che ha telefonato. Secondo lei perché c'è questa riottosità femminile? Perché voi non avete le gonadi, quindi non conoscete il termine. Ma mi faccio un corrispondente per una donna. Io parlo purtroppo nella mia bieca e deleterea immagine maschilista, ma per una donna il massacratore gonadico in cosa consiste? Ne avrete anche voi? Allora, in sostanza, diciamo che virtualmente ce le abbiamo anche noi le gonadi, insomma. Quindi... Ma dove sentite il fastidio della persona addosso? In noi è ben definito il malessere fisico. Una donna come sente il fastidioso noioso o la fastidiosa noiosa? Non saprei. Allora, mi parli di chi la perseguita, così vediamo un po' di capire. Allora, io fondamentalmente ho una piccola serie di frantumatori gonadici che fondamentalmente hanno una vocazione, o forse una palla di cristallo, per cui usano... Una palla di cristallo è bello, non una sfera. No? Usano praticamente il telefono, il cellulare, per annoiarmi nei momenti più impensati. Ma cosa le chiedono in particolare? Sono diverse, possono essere cose di lavoro, possono essere cose personali, però sono proprio alcune persone, c'è una lista nera proprio di persone che loro, come io vado in bagno, chiamano sul cellulare, oppure magari vado in pausa ed ecco che mi chiamano sul cellulare. Quindi ho un cellulare molto consunto, si vede dall'abuso che ne fanno i frantumatori gonadi, ce la prendono in momenti in cui lei vorrebbe avere un minimo di privatezza e di tranquillità. Continuate, signore, fatemi sapere, perché anche il vostro punto di vista in questa fattispecie è molto importante. Ci manca una fetta di esperienza, quella della donna che deve subire il frantumatore della propria compattezza, della propria serenità, della propria voglia di starsene da sola. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. C'è di un buon stato, sì, capito o no? E perché? Perché secondo te mi fa piacere di stare così. E allora? Adesso mi fa piacere di stare così. Io sto male, io sto solo, capito, Vince? Sto solo. Io non ce la faccio più, io penso sempre a loro, perché so che tutte le cose che io e lei ci raccontavamo quando stavamo insieme erano tutte... Tony, perché non ci veniamo a capri? Mi ci lo ammazzo a che sta qui, ah? Non fa niente, tengo l'impermeabile, tengo. Io so che sì, però, Tony, non lo so. È che io non ce la faccio, io penso sempre a lei, penso. Tony, hai scritto One Man, se me l'hai fatta arrivare a mocca. Scusa, ma l'occasione non è manco mia, ma... Vince! Vabbè, Tony. Ecco una categoria trasversale e onnicomprensiva di frantumatore gonadico. È l'abbandonato o l'abbandonata, colui che esce disastrato da una situazione d'amore, che è stato lasciato, mollato, accannato, tradito, cornificato, che si attacca a chiunque, deve raccontare a chiunque la sua pena amorosa, che tutti abbiamo passato nella vita, ma nessuna voglia di sentirla raccontata da un altro. Giuseppe, di chi si tratta? State scusate il ritardo, qui c'è in una Napoli fuori dallo stereotipo, piovosissima, c'è l'elefantiasi del dolore del meschinello Lello Arena, che appunto tartassa il povero Troisi, che ha quella voce un po' tremula alla Peppino, però all'indolenza e la magrezza, e subisce appunto il tormento incessante, come la pioggia che li infradice, cioè il tormento incessante di Lello Arena. Poi non sarà corrisposto quando sarà Troisi a essere dolente, non gli importerà nulla, perché appunto questo tipo di tartassatore pensa solo allora, a se stesso. Il frantumatore gonadico con problemi amorosi, sentimentali, sessuali, relazionali deve sapere che la sua vicenda non è mai originale. Ogni singola circostanza che viene raccontata nel caso di amore non corrisposto, di amore interrotto violentemente, di amore tragicamente finito, di scoperta di cornificazione, fa parte di una letteratura che ha trapassato le nostre esistenze migliaia di volte, quindi non ce ne può importare nulla, non c'è consiglio, non c'è nulla a dire, devi rassegnarti, devi morire, ma non devi frantumare le gonadi al tuo prossimo. Sì, adesso può assumere dei toni divertenti, magari nell'altro può divertirsi ad ascoltare un po' le varianti di una trita storia che si ripete dalla notte dei tempi. Federico, buongiorno. Buongiorno. Sì, io mi occupo di brevetti e la più grande categoria di fracassapalle sono gli inventori o chi si sente tale. Ah beh, cioè me lo immagino. C'ho una cosina che ho inventato che è una soluzione... Pico de paperis. Guarda, delle cose che non ci si può neanche immaginare. Faccio un esempio. Come? Un esempio. Ho lo spazzolino con i fili di ferro, la macchina con le luci di sotto, il water che ti ricorda quando farla e che la pesa per dirti... No, no, che cosa prendo? Delle cose assolutamente indicibili. Una volta le ignoravo, ultimamente, visto che ne arrivano così tante, le considero, le guardo e poi dico in effetti sempre ciò che penso. Grazie. Il problema è che non è che sì, te li vogliono solo far vedere, te le vogliono spiegare. Quando un'invenzione è da spiegare è già un'invenzione sbagliata. Sì, la cosa terribile, penso che attraversi tutte le categorie e tutti i frantumatori gonadici, quando ti chiedono mi serve soltanto di darmi 5 minuti di attenzione, a me già chiedermi 5 minuti di attenzione significa condannarsi definitivamente per tutta la vita a non avere mai manco un istante di attenzione. Francesco. Pronto. Medico. Sì, buongiorno. A lei frantumano molto pazienti, malati, amici? Allora, il discorso è che no, nel senso sì ma no, quelli che frantumano di più sono quelli che teoricamente non avrebbero niente da frantumare. È una strana... Cioè malati immaginari? L'ipocondria? O con cose poco importanti. Sono quelli che stanno di più là. Le persone che hanno veramente problemi seri, è una cosa strana, frantumano veramente molto poco. Mentre quelli che hanno delle sciocchezze infinite, sono quelli che stanno più lì, che si focalizzano su delle virgole insignificanti. Ma il problema è questo: il frantumatore gonadico è una persona che ha una porzione esagerata di tempo libero a disposizione. Se avesse problemi veri, seri, concreti, non avrebbe tempo di frantumare, sarebbe concentrato sul proprio problema. Dilata all'infinito la propria soggettività, rendendone soverchi gli altri. Sì, poi magari fammi sapere quello che succede. Valenzani, permetti una parola. Scusa Gloria, vieni. Mauro, innanzitutto fammi congratulare con te per la carriera favolosa che hai fatto. Eri il migliore di tutti e l'hai dimostrato, eh? Vuoi dire che mi hai votato? Io? Io non solo t'ho votato, ma t'ho fatto avere minimo 40-45 preferenze. Altro frantumatore gonadico è colui che riemerge le nebbie di un passato e ti si avvinghia perché presuppone o ha piena ragione, è convinto tu abbia fatto carriera in qualche settore e deve chiederti un favore. Lui con l'idea del senso di colpa per l'ex amico più sfigato di te. Sì, sì, questo è il postulante senza dignità, Christian De Sica, Tony Brando, cantante da TV privata, che supplica l'onorevole Valenzani alias Massimo Ghini, onorevole rampante degli anni Ottanta nel film Compagni di scuola, che appunto gli dirà ma che te serve, citando una famosa frase Andreotti Caltagirone di tempo fa, a fra che te serve. Alessandro, buongiorno. Sì, salve, sono Alessandro, ciao Gianluca. Niente, io mi presento come il vero fracassatore gonadico. Ecco, dopo tanta gente che dice di essere fracassata, io sono un vero fracassatore. E mi spiego meglio, io lavoro in una software house, quindi un settore particolare, però... In che settore lavori, non ho capito bene? In una software house. Ah, una software house, quindi sei un informe. Esatto. Però questo è, diciamo, separato. Siccome sono molto appassionato di cinema... Seguo un thread su un forum che si chiama quello di Abu Magazine, dove io raccolgo l'elenco di tutti i film che escono al cinema in formato digitale 2K o 4K. Ma questo quindi chi te lo richiede di farlo? Per quale ragione lo fa? Appunto, è quello il fatto. Lo faccio io per un mio piacere personale. Beh, finora non frantumi nessuno. Da quello che hai detto fino adesso non vedo vittime. Aspetta, arriva il dunque. Allora vedi come la tiri lunga, tipico da frantumatore, dai. Esatto. Siccome però questa informazione non tutti i distributori lo danno, io regolarmente a tutti i distributori, Fox, Warner Bros, eccetera, gli scrivo sempre o via email o via Facebook, eccetera, ma mi date l'elenco delle sale che proiettano il film in digitale, esce in digitale, ad esempio, l'elenco delle sale. Tu trai profitto da questa tua attività, profitto concreto, hai del guadagno? No, se non il fatto che di rompere le palle agli altri, sadismo, no, è semplicemente il fatto che se voglio andare a vedere un film preferisco andarlo a vedere dove viene proiettato in digitale, quindi non mi devo sbattere a cercare tutte le strutture, telefonare e chiedere. Sì, ma quanto tempo impieghi della tua giornata per classificare le potenziali visioni rispetto a quello che impiegheresti prendendo un giornale e andandoti a vedere un film? Questo è incommensurabile, è immisurabile, ma rivela in te la profonda, radicale, viscerale vocazione alla frantumazione gonadica. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, a domani. Ascoltate, Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Vi ha presentato Melog 2.0. Tous les deux enlacés.